טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Live. 21 passate da 3 minuti, buonasera come di consueto il giovedì con Agostino Spolaore e con il mio fedele compagno, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita, come piace tanto dire al sottoscritto in questo preciso istante, la state ascoltando, perciò è la vostra preferita. Insomma, Agostino questa sera e Maurizio vi presenteranno una carissima amica che ho avuto la gioia, l'onore di conoscere ancora un anno e mezzo fa, se ti ricordi. E in un contesto, in un concorso, meglio dire, insomma, artisti per New York, ma ne parliamo tra qualche istante. Silvia Pirani, concedimi qualche secondo che do qualche dato tecnico della radio. Allora, prima di tutto i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423. Poi ancora gli sms, se volete mandarli, vi ricordo il nostro numero è il 346 23 20 0 33. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora lì ci potete ascoltare in streaming, ovviamente 24 ore su 24, continuamente, basta cliccare semplicemente sulla scritta ascolta la radio nella home page. Lì trovate tutto, poi anche le notizie inerenti, quindi anche le recensioni, i fatti di cronaca e quant'altro. Insomma, è un sito abbastanza ben fornito, devo dire, quindi troverete di tutto e di più, musica e non solo. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che salutiamo, si chiama Alberto Prisco, e che oggi abbiamo avuto una bellissima notizia, ma magari la diremo quando sarà l'avvicinarsi dell'evento. Fremo dalla gioia di dirvelo, ma insomma ne parleremo quando sarà il momento. Allora, questo invece è il momento, la serata dedicata alla musica splendida, alla musica bella, simpatica, giovanile, anche se devo essere sincero, perché lei è una carissima ragazza, giovanile anche nell'aspetto, bellissima, consentimelo di dirtelo. Grazie. Silvia Pirani, che diamo il benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao a tutti, ciao Blu Radio Veneto. Silvia Pirani, che ci è venuta a trovare direttamente da quel di Rovigo, provincia? Assolutamente no. Rovigo in mezzo, tra dove abito e dove sono nata. E che sarebbe? Io sono originaria della provincia di Ferrara. Codigoro, ciao a tutti i codigoresi all'ascolto. Però abito in un altro grandissimo paese, famosissimo, che è Villa del Bosco, che è poco distante da Piove di Sacco. Ma comunque dai, insomma, a metà c'è Rovigo. Allora, Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara questa sera a condurre l'appuntamento live con la musica di Blu Radio Veneto fino alle 22.30 circa, con questa cantante che ci viene appunto a trovare questa sera per proporre la sua musica. Tra l'altro sono canzoni che mi sono piaciute, quella c'è una canzone che tu hai scelto, poi adesso sentiremo dal disco, dal singolo, che mi piace particolarmente, tra l'altro, ma comunque ne parliamo dopo. Silvia, ci siamo visti un anno e mezzo fa, sì, più o meno, sì, ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa, sì. Eri a un concorso, sì. All'Artisti per New York, che ti sei arrivata terza, sì. E se te, è un'esperienza che quella, insieme. Certo, tutto fa bagaglio, sì, sì. Maurizio. Sì, a me, leggendo la tua biografia, mi sono fermato sul discorso dell'eclettismo vocale, è una cosa molto importante l'eclettismo vocale. Sì, secondo cioè, me sì. Tu hai cominciato ai 14 anni, hai raggiunto, hai suonato nei piano bar e hai evoluto assolutamente, il tuo disegno è di perfezionarti, studiando chiaramente nella musica leggera. Mi piaceva l'idea di non avere limiti. Esattamente. E quindi per non avere limiti, oltre alla passione e al talento che fanno la sua parte, devi studiarci tanto sopra. E quindi 4 anni di canto lirico e 2 di moderno, in tutto 6. Come si combina il canto lirico e il canto moderno? Si combina come con la danza classica, come con la danza moderna. Cioè se tu hai le basi, e dopo puoi fare tutto il resto. Puoi fare quello che vuoi. Io come base con la lirica ho la respirazione. E ho una respirazione completamente diversa da chi fa solo musica moderna. Perché io in canale, vabbè, sposto costo alle robe un po' tecniche. Sì, ok. ma è interessante, no, è giusto che tu spieghi, perché è interessante. Ma magari annoio, non so. No, ma non è mica vero che annoio. Allora, facciamo una lezione, vai. Dai, vai, vai. Allora, inspira e sposta il diaframma per fare spazio all'aria. per avere uno spunto maggiore, per avere più aria nei polmoni, si allargano leggermente le costole dietro il costato e quindi dopo, contraendo i muscoli, hai diciamo quel 2-3 secondi in più che ti permettono magari di fare un acuto difficoltoso o una frase molto lunga. E questa è una tecnica che viene usata nella musica lirica, appunto perché hanno fraseggi molto lunghi. Certo. E quando tu fai delle opere o comunque delle arie, i respiri sono programmati, non puoi respirare quando vuoi tu, ma quando lo decidi Puccini, Bach o chi per lui Mozart, sono destinati a essere fatti così lunghi, per cui hai bisogno di tanto fiato. Ma tu che hai cominciato con la lirica, proprio sì. non hai voluto proseguire? Diciamo che il mondo lirico è bello, ma è ancora più difficoltoso del mondo della musica leggera, appunto, primo, secondo me. Perché, quindi per comodità? No, assolutamente no, perché comunque la passione ti spinge a fare qualsiasi cosa, certo. Però comunque entrare nei teatri, nelle varie orchestre, conoscere il direttore d'orchestra giusto è sempre molto difficoltoso. E poi perché comunque il mio cuore pulsante era per la leggera, mi sono impegnata a sgomitare lì invece che di là. Tu hai fatto un sacco di canzoni, hai inciso un sacco di canzoni. Sì, ne ho incise un sacco, però effettivamente in radio come singoli ne sono andate 4. Stasera vi ho portato anche delle altre chicche per voi. Grazie, sei un tesoro, come sempre. Grazie Agostino, grazie. Maurizio, vai tu. Sì, è un discorso, tu avevi parlato giustamente lirica e leggera, e imparando, studiando, sei riuscita ad arrivare ai momenti del blues, sì, e ai momenti del funky. Parliamo prima del funky, che è precedente al il blues. Funky è stata un'esperienza di 4 anni con un gruppo di 10-11 come elementi. Si fa a coincidere 10 elementi per 4 anni? È molto duro. Bisogna avere un leader molto, molto bravo, uno potente, sì, uno che dice ok, non mi interessa, decido io. E effettivamente è una dittatura, però funziona solo così. Quando il leader è mancato, nel senso che aveva problemi lavorativi, che non riusciva più ad avere la stessa presenza, il gruppo non è più andato. Il gruppo si è sciolto. Si è sciolto, sì. Silvia, non ti sei fatta mancare nulla, nel senso che c'hai un doppio artista, questa sera doppio musicista, c'hai il chitarrista e anche pianista, che lo dobbiamo ancora presentare. Esatto, esatto. Io collaboro da tanti anni con un ragazzo, ti presento, che ho conosciuto, io ero su un bancone e questo mi guarda e mi dice: ma tu, oltre a fare questa roba qua di sculettare e fare la vocalist, perché devo dire la verità, è praticamente il mio primo lavoro ora, certo, fare la vocalist, cioè sulle mani bella gente, 6 anni di canto per fare Welcome into the Party. Agostino, sei fiero di me? E niente, questo ragazzo mi dice: ma tu canti pure? Eccolo, la sente la sua presenza. Abbiamo sentito subito. E ho detto: sì, guarda, io nasco come cantante, ma sai che io scrivo, ma veramente? E niente, praticamente mi ha scritto tutto lui, ed è Matteo Tisato. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera a Matteo. Ciao Matteo. Ciao, ciao. È l'artefice, quello che ha praticamente il tuo punto di riferimento. Sì, assolutamente, nella musica e nella vita ormai. Chiaro. Tra l'altro ho scoperto da Matteo stesso, che me l'ha detto lui, che è un carissimo amico di Sandro Sartori, quindi sì, è già stato qui da noi. Sì, sì, me lo ricordo. Adesso mi viene in mente. Sono venuto con Adriano Pegoraro e Alice Nichele tanti anni fa. Un po' di anni fa. Io non c'ero. Tu non c'eri, ma c'era Sandro, sì, all'epoca. Esatto. Va bene, io direi di rompere il ghiaccio, se tu sei d'accordo, sì. Silvia, facciamo ascoltare qualcosa della tua musica. Sì, questa però, quella che stiamo per ascoltare, l'ha scritta un altro mio amico, si chiama Fabio Gollini, che salutiamo, ecco. Ed è Canterò di noi, giusto? Esatto. Esattamente. Tra l'altro la canzone è splendida, secondo come ti dicevo all'inizio. Perché ha quei colori blues che piacciono a noi. Brava, bravissima. E infatti non è un singolo. E Maurizio giustamente dice che quasi tendenzialmente la tua voce tende ad andare sul soul quasi. Sì, sono pezzi. D'accordo. Infatti io, secondo me, quando abbiamo fatto la recensione del disco, questo lo metto in un gradino superiore agli altri. Infatti con questo faccio i concorsi. Bene, allora abbiamo puntato giusto. Ed è una splendida, veramente splendida ballata. Dico l'ultima chicca di questo, certo, concorso, certo. Ho vinto quest'estate un concorso, il Festival del Garda, quello indetto da Vince Tempera, di cui ho vinto sia il concorso in sé che il premio alla critica con Canterò di noi. Benissimo. E la soltiamo. Lui che mi ruba i sensi e li porta via con sé, mi lascia un nodo in gola, regina senza re. Resta il mio corpo vuoto, lì da buttare via, o da mangiare in fretta e senza più poesia, come la schiuma chiara. questa birra scura. Sare il sapore forte in una notte sola. E canterò preso adore per consumare amore, la voglia in fondo resta, pensiero fisso in testa, tu col mio cuore in tasca ferisci quanto basta, ma come un aquilone io volerò più su, niente lo so dolore, io preferisco il blu. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ve l'avevo detto che era una gran bella canzone, Canterò di noi. Questa quando l'hai scritta? Questa non l'ho scritta io, sì, l'ho scritta... No, ma quando è uscita? Questa canzone qua ha un paio d'anni. Volete sapere la storia? Certo. Indubbiamente dobbiamo sapere la storia. Niente, in un momento di dolore mi stavo confidando con un amico su Facebook, abbiamo praticamente lo stesso lavoro e quindi ci si scambiava ogni tanto piaceri, informazioni e niente, io sto male perché mi ha appena lasciato, anch'io quella cattiva mi ha appena lasciato, quel cattivo, e niente, si sfogava un po' così e mi ha detto: Silvia, devo andare perché mi scappa di scriverti una canzone. Ah, che bello. E a distanza di una settimana sono andata a registrarla perché lui aveva già fatto questo arrangiamento stupendo e diciamo che ha preso spunto da quello che gli avevo raccontato e un po' dalla sua esperienza, e gli avevo dato degli spunti su quali canzoni mi piacevano. E lui ha ascoltato Briciole di Noemi, che è molto, cioè, su quello stile lì, e poi gli avevo dato altri spunti blues, cose anche un po' impegnative tipo Rachel Ferrell, cose del genere, e lui ha fatto questo comunque pop italiano ma con questi colori così black che a me piacciono tantissimo. E poi c'è anche la tastiera proprio anni 60, si Lemon, sente, certo. Lemon, quando si usa Lemon hai già una tipologia, sai già dove devi parlare. Esatto. E questo conferma anche il musicista qui davanti. Puoi andare al microfono, dimmi assolutamente qualcosa. Sì, perché Rhythm and Blues, sì, ma fatto da lei lo fa bene, perché visto che ha suonato blues, si è, come si dice, si è introdotta nel blues. Mi sono incattivita. Si è incattivita nel blues. Il blues è una bella cosa. Il blues fa capire, soprattutto da esperienza, allarga gli orizzonti. Il blues è sofferenza. Esatto, il blues è sofferenza. Hai detto una cosa giusta, il blues è sofferenza. Uno se non soffre non canta. Esattamente. Blues. Poco a fare. Già ti porto i saluti dalla provincia... Di Reggio Emilia. Paolo ci sta ascoltando, che tra l'altro è un carissimo amico di questa emittente, dice wow che bella voce la Silvia. Grazie. Grazie a Messi e Paolo, è un piacere servirla. Una settimana fa era lì dove sei tu. È un collega. No, non è un collega, ma insomma è venuto a sentire la Giulia Daici, che è un fan accanito, nel senso positivo del termine, è una ragazza che fa musica anche. Perfetto, lei è la collega, lui è un fan. Okay. gira. Ciao Paolo. Ok, quindi abbiamo sentito questo pezzo di Fabio Gollini, che è un musicista giovane sicuramente. Sì, una trentina d'anni più o meno. Ha fatto altre cose che tu sai? Lui è un ragazzo che suona per tutti i locali d'Italia, è un bravissimo sassofonista e niente, il suo lavoro è questo, di andare in giro per locali e fare cose. E poi ha l'hobby di scrivere canzoni per sé o per altri, come questo caso. Questo pezzo che ha scritto per te. Anche dalla Toscana, Marisa ti saluta. Anche in Toscana ci sentono, grazie Marisa. E poi anche dalla provincia di Padova, Roberta. Siamo qua vicini, ciao Roberta. E per concludere il discorso, chi l'ha fatto l'arrangiamento? Sempre lui. Lui insieme ai suoi collaboratori. Quando l'ha costruito, tu l'hai sentito, hai dato l'ok immediatamente? Assolutamente, sì. Questa canzone non ha avuto proprio niente da ridire. Infatti la usi nei concorsi, mi pare giusto. Sì. Bene, allora Blu Radio Veneto 21-22, Silvia Pirani, se non l'avete ancora capito, insomma, questa è la voce di Agostino con Maurizio Calzavara, ovviamente non netto di questa emittente che anche questa sera ci fa compagnia, vi ricordo. Ha fatto uno sguardo come dire parla per te, però sì. No, allora lo sai che lui è non netto di questa emittente. È il più attempato? No, più che altro sono... Quanti sono? 65-66 anni? Beh, sono 35 anni che sono qua, nel senso positivo. Ottimo. Allora, Silvia, sei pronta? Vuoi che ci ascoltiamo qualcosa dal vivo adesso? Sì, vi farei... Facciamo Vienimi a prendere. Ci stai, Matteo? Okay. Matteo è pronto, chitarra stavolta. Allora, io chiedo scusa agli ascoltatori perché hanno sentito una gran performer in come si dice? In disco. Oggi farò del mio meglio, signori, perché ho mal di gola. Sei da ammirare, invece, secondo me, perché pur avendo questa come dire, questa defiance, sei comunque qui questa sera a farci sentire la tua musica e la tua voce. Allora questo pezzo cosa vuoi dirmi, Matteo? Dillo. No, tu, nel senso che partendo da un pezzo precedente che era secondo me stupendo, meraviglioso, okay, certo. Perché è una canzone di un spessore altissimo e se la sentite dal vivo è ancora più bella, perché io l'ho sentita a un concorso ed è fantastica, appena me la fate sentire. L'unica pecca è che non l'ho scritta io, Comunque ora il pezzo che vi facciamo sentire ha tutt'altro scopo, nel senso che questo pezzo è stato studiato per far muovere le piazze, è stato il mio terzo singolo e quindi col primo ho aperto le danze sul Festival Show e per cui anche quello è molto sprintoso. Il secondo invernale era una cosa un pochino più diciamo introspettiva, questo era stato studiato come il primo per fare un po' ballare, per far muovere la gente e poi mi ha fatto andare al Festival Show come ospite, non come... Quello come di per... Bella Monella e Birichine. Sì. Ne approfitto allora per salutare Giovanni Zani, che l'ho sentito questa sera. Ma tu lo sai che io sono diventata tua collega da un paio di settimane? Non lo sapevo. Di che radio? Peter Pan. Conduco un programmino al sabato sera dalle 9 alle 11. Bene, allora ti sentiremo. Esatto. Magari ti saluterò. E insomma, lo scopo di questo pezzo è far divertire e magari anche un po' emozionare, ma in senso molto happy, molto easy. Molto easy. E perdonate la mia voce. Sei pronta? Ok. Blu time. Stasera non ho voglia di restare a casa, a fare pugni coi pensieri, coi problemi. Stasera non ho voglia di ricordare, di capire se in fondo stavo meglio ieri. Cosa avrò sbagliato con te? Comprendere tutti perché? stasera ho solo voglia di esagerare. Allora cosa aspetti tu? Vieni, vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non importa né dove, né come, né quando. Mi basta lontano da qui. E tu vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non ci serve una destinazione. Questa sera l'istinto uccide ogni ragione. Na, ogni ragione. Na. Stasera non ho voglia di seghe mentali, di trovare il mio mantra cibi orientali. Stasera cancello ogni casino in testa e lascio spazio solo al ritmo della festa. Mi metto sempre nei guai, ma il coraggio non mi manca mai. Stasera ho solo voglia di esagerare. Allora cosa aspetti tu? Vieni, vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non importa né dove, né come, né quando. Mi basta lontano da qui. E tu vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non ci serve una destinazione. Questa sera l'istinto uccide ogni ragione. Ogni regola scritta, ogni stupido limite che spegne il nostro sorriso più vero. Ogni dolore di cuore, ogni lacrima spesa. Stasera rimani in soffitta rinchiusa. E allora cosa aspetti tu? Vieni da me. Allora cosa aspetti tu? Vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non importa né dove, né come, né quando. Mi basta lontano da qui. E tu vienimi a prendere, prendere, prendere. Portami via, lontano da qui. Non ci serve una destinazione. Questa sera l'istinto uccide ogni ragione. Ogni ragione. Una cosa è certa, Maurizio, la grinta non gli manca. Ah, indubbiamente, ha superato anche l'impasse del mal di gola, l'hai superato bene. Beh, insomma, allora per chi mi conosce sa che è una voce molto più limpida. Sì, questa sera sono molto bluesman. Oh, sei yeah. Molto blues, sì. Oh, baby, I am getting. Oh, ben, ben. Oh, ah, yeah, oh, oh, oh. This is the blues time. Puoi continuare, sai, noi ti facciamo cantare. Dai, facci qualcosa di... Oh baby, baby, baby, come on, I'm getting older. Oh, oh baby, baby, come on, I wanna your body now. I'm getting, yeah, I'm getting for you. Grazie. Bravissima. Di certo ve lo posso garantire, anzi ve lo assicuro, anzi ve lo giuro, non c'è niente di programmato in questo. Assolutamente. Dopo, se volete giocare un gioco, proviamo a fare una canzone in diretta, ok Matteo? La inventiamo. La inventiamo al momento, sì. Dobbiamo sottolineare una cosa. Questa è una novità pazzesca, no? Va bene, è una cosa positiva. C'è sempre da imparare. Agli Scostello ti dava con le freccette nel con un giochetto e dice, sceglieva i pezzi, tu lo puoi inventare direttamente. Esattamente, facciamo un puzzle. A proposito di questo pezzo che avete fatto prima, sì, cioè in diretta, chitarra e voce, sì, chitarra abbastanza velocizzata da parte di Matteo, sì, e l'hai un po' modificata rispetto al disco, praticamente al pezzo da disco, secondo me modificata in una certa maniera divertente, sì, però non così scacciapensieri come l'hai fatta. Ah, sì. Sai cosa c'è? Dimmi. Nella situazione, secondo me, del Vieni a me a prendere, che è una canzone leggerissima, sì, esatto, volutamente arrangiata, in una determinata cosa, però ha una variante che dà una sospensione quasi, non dico emozionante, però perché lei comunque gli dà un'enfasi su ogni dolore di cuore, esatto, sì, che comunque ti arriva un po' al cuore. Quindi regali in una canzone molto leggera e tra virgolette stupida, volutamente, tra virgolette. No, ma è giusto comunque. Gli dà un'emozione che è a suo vantaggio, nel senso, capacità di dare. Quindi lei, se cantasse tipo nella vecchia fattoria, probabilmente riuscirebbe ad emozionare lo stesso. Matteo, grazie. E poi che complimento. Guardate, io questo qua lo sarà la quarta volta che mi fa un complimento, quindi sì, è registrata, quindi sì, me lo riascolterò in loop tutta la vita. Però... E io volevo ricambiare il complimento con una torta. Con una torta. No, perché lei, sappiate, è una cuoca stratosferica. Sì. Non ce l'hai portata. Non l'ho fatto in tempo, volevo. Ho tra l'altro un pacco di cioccolata fondente a casa, così, regalatami. Che sforno tenerino al cioccolato, che è un dolce tipico ferrarese di cui lui va ghiotto. Quando bravissimo, voglio farmi perdonare di qualcosa o voglio un favore, gli porto la tenerina. Siamo arrabbiati anche noi con lei. Avete tutte le ragioni del mondo. No, ritornando a questo pezzo, nel disco c'è un po' di falsetto che stasera non hai fatto. Guarda, stasera è meglio che... No, ma sì, ho capito per quel motivo. Però nel pezzo sì, c'è un po' di falsetto. A me il falsetto piace particolarmente, al di là del pezzo leggero, come ha detto Matteo, dà una colorazione che va... travalica il discorso del leggero. Ma infatti, perché comunque l'abbiamo dato un minimo di spessore, appunto. Sia per l'interpretazione, che io cerco di dare comunque un risvolto sempre abbastanza frivolo ma tecnico. Ecco, abbiamo parlato di musica leggera. Esatto, assolutamente. E Matteo con quella sospensione ha creato un momento emozionale, per cui abbiamo voluto dare sia l'una cosa che l'altra. Tra l'altro volevo fare i complimenti di ricambio, ma non per sviolinarti Matteo, al mio musicista, che si è dovuto imparare la canzone di cui lui ha scritto e fa da più di da un anno in una tonalità. Stasera l'ha imparata a un tono sotto, sì, perché sono inguaiata. Molto inguaiata. E quindi voglio dire, è stato bravo, cioè, non è che sia stata un'impresa epica, però diciamo che fatta, sai, lavori, finisci, fai tutto al volo. Più che altro il poco tempo che ha avuto, e poi quando tu cominci a fare una cosa con la chitarra non è come con la tastiera, che è il trasposto, cioè, sei abituato, vai di braccio a macchina, invece magari così, anche se è facile, però ti viene proprio di impulso di fare un'altra cosa, e invece sei stato bravo Matte. Grazie. Hai sempre la pila così carica tu? E oggi sono scarica perché penso di avere qualche linea di febbre. Ma io ti ho sempre conosciuto così. Sono sempre tutta pimpante. Senti, qua dicono, però, e da dove salta fuori sta voce? Grande. Era riferito alla canzone prima che hai fatto, quella blues. Ah, quella blues, perché ragazzi, lì viene fuori, cioè anche se mi faccio, ma mi spacco una corda, mi viene proprio fuori così. Sì, ti chiedono già se hai qualche data in giro. Ma certo, solo che... Dalle parti dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna no, io sono emiliana e nemo profeta in propria patria, vado sempre verso Jesolo, Treviso, Vicenza, Venezia, e purtroppo in Emilia al momento non ne ho. E se volete sapere le mie date del weekend ve le dico, ma certo, sarò, il blues non c'entrerà assolutamente niente, perché farò la vocalist in situazioni anche abbastanza, come dire, rinomate, ricercate, perché i vocalist di punta cercano di andare in locali carini, e io devo dire con la fortuna di farli. Tra l'altro è partito il progetto Naima, e mi sono data un nome per la mia parte dance, per non sporcare la parte pop. Ecco. E quindi ho voluto fare questa distinzione. Vi dico subito che domani sera sarò alla Scala. Scusate, oggi è giovedì. Sì, domani sarò alla Scala, che è un locale, a una discoteca a Conegliano, vicino a Conegliano. Sabato sarò al Revolution, che è a Occhiobello, che comunque siamo in Emilia Romagna. Uh-huh. E mentre il 27 sarò al Klondike, che è vicino a Caorle. Sono tutti locali molto happy, molto DJ set, molto enjoy yourself sulle mani people. Ok. Ti ho detto che volevo essere eclettica. Ma molto eclettica. Infatti io ho visto sul tuo sito, Silvia, che sei veramente gettonatissima, hai un sacco di locali dove tu collabori, insomma. Sì, devo dire che per quanto questo tempo comunque sia non tanto felice per la musica, per l'Italia in generale, comunque quando tu sei in un momento di crisi, purtroppo non volevo parlare di crisi perché la musica ti fa sviare, però si ripercuote anche qua, e di solito preferisci acquistarti una bistecca che non andare fuori o comprarti un CD della Silvia Pirani. D'altronde comunque la gente per fortuna ancora vuole divertirsi, e io ho creato un piccolo format con me stessa, nel senso che per fortuna di cantanti femmine ce ne sono meno che di maschi. In secondo luogo, sono molto timide di solito, mentre io faccio veramente tanta festa. Non si era capito. Per cui questo, diciamo, la voce è abbinata al temperamento un po' peperino. Un pochino. Ma dai. E se qualcuno non avesse capito, mi dà veramente modo di lavorare tanto. E comunque ho tenuto prezzi molto bassi. Ma... da 6 anni vado fuori allo stesso cachet. Signori, non preoccupatevi. Costo uguale a prima. Ma quando eri più giovane, i tuoi impazzivano insomma con te a casa? Sì, impazzivano proprio, cioè proprio impazzivano. Io quando ero giovane ero la strana del villaggio, quindi sempre un po' isolata, e le amiche sì ce le ho, ma sto a casa a cantare, e magari fuori mi divertivo meno che magari non in casa con mio padre che è pazzo come me. E ti giuro, da adesso esatto, ti giuro che io sono quasi la più calma della famiglia. Addio. Mia sorella è peggio di me, la saluto, ciao Elena. Ma sono tutti fuori, cioè chiedi a Matteo, lui è innamorato dei miei, anche di mia sorella. L'abbiamo svelato, ecco. No, più... lo sa da tempo. Lo sa. Ma il tuo papà ti ha dato anche una mano? Mio papà sì, mio papà scrive pezzi, ha uno studio, mi ha diciamo lanciato. Infatti, lui. Maurizio è rimasto molto colpito da questa cosa, che tuo papà ti ha aiutato molto, vero Maurizio? Sì, l'ha aiutata, cioè ha dato una mano per aprirgli determinati orizzonti. Ha avuto molta fortuna con la famiglia, perché loro non mi hanno mai troppo spinta, perché ho visto certe mie amiche, magari cantanti, che trovi nei concorsi, che addirittura una è stata strarimproverata, hai respirato male, guarda che figuraccia. Invece i miei sono sempre stati tranquillissimi, però mi hanno sempre tanto appoggiato e sono stato il mio sostegno. Ma avere un musicista, cioè un padre musicista in casa, cosa vuol dire? Mi ha capito, mi ha aperto intanto l'attività, perché quando ho visto che a 15 anni, 14 anni ho cominciato a prendere lezioni, volevo fare sul serio, mi ha regalato 2 casse della Montarbo da 400 che uso tuttora, che vanno da Dio, hanno dei medi stupendi, vabbè, e il mixer, per cui mi ha fatto da, come dire, ha investito su di me e ha dato effettivamente i suoi frutti. E poi mia mamma mi ha accompagnato per 4 anni finché non ho preso la patente, da Codigoro a Ferrara tutti i lunedì per prendere lezioni per canto lirico, e senza di lei non ce l'avrei mai fatta, perché con la scuola Ferrara Codigoro sono 50 chilometri ragazzi, e ci vuole un po', di tempo, eh. Quindi grazie alla mamma o grazie al papà? Grazie a tutti. Grazie a tutti, sono stati veramente loro due a farmi così. Vabbè, visto che mamma e papà hanno fatto del loro, adesso tu ci fai del tuo. Certo, certo. Cosa ci fai ascoltare? Facciamo un pezzo, visto che abbiamo parlato di papà, un pezzo che ho fatto con papà, si chiama Ritaglio. Tra l'altro questa è una chicca in esclusivissima per voi, perché sarà un brano che uscirà nel mio prossimo EP e non è ancora girato in radio, quindi lo lascio proprio per voi. Wow. Ah, benissimo. Questa è una grande soddisfazione. Ringrazio, lo dico. Niente, dopo vi parlerò di chi farà l'arrangiamento di questo pezzo e della collaborazione che sto avendo con questa persona, che è Carlo Rizzioli, che è una persona di grande rilevanza nella mia vita al momento. Beh, l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Certo. Mi scopro così come sono, le debolezze di un uomo non mi fanno più paura, e ritaglio tutto quel tempo. Sabbia nel vento, mi taglio di nuovo i capelli come servisse a tenermi lontano gli sbagli. Che mi sento speciale, ho il riflesso di false paure, le scrivo col sale, lo so che fa male, rimane la voglia di urlare di fronte a uno specchio che resta a tacere. Queste parole di sabbia e di sale. Mi avete sentito? Certo. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ti abbiamo sentito. Eh sì, mi avete preso. Mi scappava di cantare. Mi è venuta voglia di aprirti il microfono. Insomma, sì, sì, che sì. Poi al momento. Hai fatto bene. Senti, papà si chiama? Stefano Pirani. E la mamma? Elisa. E li salutiamo. Li salutiamo, sì. Ciao anche alla sorellina Elena, che dobbiamo salutarla da parte di Matteo, soprattutto. La salutiamo. Abbiamo scoperto un amore segreto. No, non è segreto, lo sa. Va bene, Blu Radio Veneto, Agostino e Maurizio, ma soprattutto Silvia Pirani e la sua splendida simpatia, e senza mettere in conto la voce, insomma, che qui continuano a farti i complimenti, che dicono che hai una voce splendida. Grazie a tutti. Ritornando al pezzo, Silvia è un pezzo autobiografico. C'è qualcuno che mi dice che dobbiamo mettere anche la video chat mentre facciamo questa intervista. Questo non l'abbiamo. Peccato, no. Sì, è un pezzo autobiografico. Questo è una. Ho sentito questa canzone un giorno che per caso sgattaiolavo, così ogni tanto vado in studio a trovare mio padre, perché lui appunto suona, fa cose, si diverte con la musica anche lui, e ho detto: papà, ma questa canzone, guarda, l'ho fatta stanotte, senti se ti piace. Eh sì che mi piace, papà, dai qua un attimo. E l'ho inventato sulla melodia, mi ha aiutato un attimo col testo, dopo il testo è tutto mio e una frase o due sono del papà, e abbiamo fatto questa canzone. Poi l'ha arricchita con quella bellissima armonica molto blues all'inizio. Sì, esattamente. Anche lui è un bluesman. E per un periodo abbiamo anche suonato insieme, però poi ci litigavamo. E meglio fare due strade separate. Sì, meglio che va così, papà. E allora. La rimetto il sottofondo bellissimo, senti questa armonica del babbo. E quindi niente, questa canzone è nata sempre per motivi così personali. C'è sempre un motivo per cui nascono le tue canzoni, quindi. Beh, tu sì. ne scrivi tante? No, non ne scrivo tante, ne scrivo veramente poche durante l'anno, perché per fortuna non ti piace tanto scrivere. Non è che non mi piace, è che mi folgoro a scrivere, non è una cosa che dice adesso scrivo. Mi viene molto più facile fare una melodia su una base, e sono diciamo una brava melodista, ma proprio inventare una melodia di sana pianta mi è capitato due volte e stavo veramente tanto male. Quindi per fortuna ho scritto poco. Beh, insomma, se poi i risultati sono questi, insomma, dovresti applicarti un po' di più. Ma preferirei di no, perché dovrei soffrire di più. E allora non è il caso. Beh, ma non sempre la musica, la canzone che nasce è sofferenza, eh. Vuol dire, no, in gioia. Effetti no, però, però tutte le volte che mi è capitato di scrivere, se era gioia andavo a ballare. Ecco. E quindi c'è l'altra fase tua, giusto? L'altra faccia. Quindi se sì. È gioia fai la parte disco. Se... Sì, sì, no, no, nel senso, se è gioia sono gioviale, quindi non, proprio non mi viene di scrivere. Invece quando soffro mi viene proprio di scrivere. Dal vivo come la imposteresti questo pezzo qua? Come lo imposteresti? Palco tutto nero, occhio di bue su me e Matteo Disato, che facciamo un unplugged. Sei d'accordo, Matteo? Però butterei anche mio padre con l'armonica in mezzo. Assolutamente, alla senza armonica sta chitarra. Esatto, con l'armonica è essenziale. Alla newyorkese con un faro che ti illumina e poi via. Quei 3 minuti, 4 minuti quando dura il pezzo, senza nessun rumore, proprio via. Esatto. Esattamente, deve essere così. Quindi blues, assolutamente blues. Anche se è una ballad, però è una ballad che tuo papà ha colorato di blues. Dei colori blues, sì. Esattamente. Assolutamente, nelle note è un pezzo pop, però i colori sono sempre blues. E poi io comunque penso con la voce di dargli sempre un tono un po' così, black. Black, esatto, sì. Potresti fare anche un disco di musica black, perché no? Stiamo lavorando. abbiamo scoperto qualcosa. No, nel senso che con il gruppo blues che avevo abbiamo fatto abbiamo inciso il nostro repertorio, sono tutte cover, però se tu magari hai voglia di andare sul mio sito e così vuoi mettere su Guilty. Se puoi tutto. Tanta roba. Ma il cover di cosa? Di quale tipo di pezzi cover? Blues, per esempio questa Guilty è un pezzo strasconosciuto di Julie Driscoll. Ricordiamo chi era Julie Driscoll. Era una cantante blues degli anni 60, esatto. Più o meno. È di Trinity, sì, esatto. E quindi questo pezzo me l'ha fatto scoprire Paolo Pigozzi, appunto. E devo dire che non lo conoscevo e lui mi ha tanto insegnato. Eccolo, proprio questo, Paolo alle tastiere. Ascoltiamocelo. Baby, I've been dreaming that I shouldn't come by. I'm on but I find myself in trouble, darling, and I have nowhere else to go. To keep on moving, baby. Almost back in your arms again. Where I'm getting. I've been getting. What I'm supposed to do. I'll come in nothing and try to return on the right way. You know it is with my baby. I just can't by myself. Take a walk. kiss by myself. Take all my sin for me to pretend to be somebody else. Pazzesco, pazzesco. Vedi, solo, pazzesco. Solo da noi succedono queste cose. Non era programmato nulla, nulla, assolutamente nulla. Nulla. Poi ho visto niente. Matteo che si è illuminato, assolutamente, si è illuminato, cleptonianamente parlando. Tu sei libero, sì, in agosto, tutto, vero? In agosto? Sì. Cosa c'è da fare in agosto? Una serata tutta blues. Oh, sì. Abbiamo già deciso. Prego, sì. Promesso? Sì. È registrato, eh? È registrato, sì. Non puoi dirti no. Facciamo. Facciamo una serata blues. Matteo, ci stai? Assolutamente, sì, però bisogna vedere i livelli, perché qua siamo a livelli altissimi, sì. Per cui ditemi già la canzone oggi, perché forse in agosto ti preparo. Splendida, davvero bravissima, complimenti. Beh, volevo dire da casa che quello che avete sentito erano due voci, una era registrata e l'altra ero adesso. Esattamente, era dal vivo, in diretta. Dalla zona del Friuli, Udine, Andrea Varnier ti saluta, è un tuo collega, però chitarrista, ciao carissimo. È già venuto qui a suonare e ti sta ascoltando. Ha messo mi piace, insomma, su questo. Grazie. Allora, Blu Radio Veneto, già quasi un'ora passata con Silvia Pirani. Sembra incredibile, ma quando si sta bene in compagnia il tempo vola. Abbiamo letteralmente stravolto tutta la scaletta. Tutto, è bello così. Andiamo a braccio. È tutto live, assolutamente live, perché le cose dal vivo cambiano immediatamente. Quando c'è l'amore del blues, entra, si sviluppa, si allarga e poi ritorna. Sì. A proposito, dimmi. Volete una canzoncina live sul serio? Facciamo una canzoncina live. Siamo qui per questo. Questa l'ho scritta tutta io. Ah, ecco. Bene. Melodia, testo. Non riuscivo a dormire, però non è colpa dello stesso uomo, è un altro. È un altro, va bene. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a uomo quel che è di uomo. Per quello hai poche canzoni o ne hai tante per quello? No, aspetta. Perché le ho scritte tante per lo stesso, quindi non è che una è per ogni uomo. È una battuta, Vai tranquillo, anche perché tu lo sai che io vengo da un precedente lavoro di lap dance. Non è vero. No, adesso va a finire che faccio come la fine di tutte quelle cose bellissime che seguono su Facebook. No, non c'è nessun video mio in giro, neanche tu foto. Sei così, con la pila dura c'è sempre, esatto, in carica. Insomma, noi diciamo sparata fuori da un canon. Esatto. In dialetto, vabbè, ci ascoltiamo una canzone, si intitola? E ti racconto così. Sbagliato, deciso a perdere come in passato, e niente che tu ora mi dai, e niente che riceverai, non riesco ad essere come le altre, specialissima nella imperfezione, stimata per quello che io sono, allontanata per paura di starmi vicino. E ti racconto così la storia che mai ci sarà, e la paura che abbiamo di noi di farci male senza volontà, provare quel brivido nel cuore, lasciarsi andare senza fare rumore. E ti racconto così questa storia che mai si vedrà, di come è triste sapere che noi anche col tempo mai ci si avrà. E sulle mani ho ancora il tuo odore, droga leggera che risveglia il sapore, anche se avresti solo voglia di dormire alla mattina che senti più male. E ti racconto così la storia che mai ci sarà, la paura che abbiamo di noi di farci male senza volontà, provare quel brivido nel cuore, lasciarsi andare senza fare rumore. E ti racconto così dai e niente che riceverai. Ed il racconto mai scritto di noi non accontenta nessuno, e lo sai. Un'altra splendida ballata, Maurizio. Sì, io ho scritto che è un stile, questo è un pezzo con stile decisamente sanremese, ma in senso positivo del termine. Sì, sì. Quello, sì. Matteo l'ha arrangiata allora praticamente. No, l'arrangiamento qui è di Marco Berton, che saluto, che è il mio tuttologo, nel senso che lui mi cura dal sito alle foto a alcuni arrangiamenti. Matteo l'ha eseguita stasera. Matteo l'ha semplicemente eseguita stasera. E che altro fa? Come dimenticarci, i video, tutti i miei videoclip sono di manifattura Marco Berton, detto anche CNI, e alcuni sono stati fatti in collaborazione con Mr. Ricaz della Ricanet, e però Marco Bertone è quello che dà la pasta di tutto e sono fiera e orgogliosa di lavorare con lui, veramente bravissimo. C'è qualcosa che dovevi dire, Matteo? Sì, vogliamo anche dire che il connubio CNI e tutte queste cose qua sono state fatte perché c'è un fulcro che non ho ancora citato, che è Paolo Verlanzi, che è il mio manager, cura il management di Silvia Pirani, e ha fatto da colla tra tutti questi personaggi che ho praticamente conosciuto. Lui è quello che mi ha fatto andare al Festival Show come ospite, che mi sta curando l'ufficio stampa, che sta curando parte dell'EP, è veramente quello che mi sta dando. Quindi quando uscirà spaccherà sto disco, insomma. Oddio, ti stanno aspettando tutti con gioia. C'è una bella produzione alle spalle, questo è vero. Ecco, sì, adesso ci mancava l'ultima chicca, che era, diciamo, mancava proprio l'ultimo tassello, che era quello di avere qualcuno di già inserito nell'ambiente che potesse aiutarmi con gli arrangiamenti, ma anche con canzoni sue, ed è, sta diventando così, ed è Carlo Rizzioli. Lui è un grande cantautore, un grande autore emergente. Nel giro di un paio d'anni ha scritto per Emma, per Eros, per gli Stadio, e continua a scrivere. Non posso anticiparvi niente perché sono cose che sono sotto contratto, che mi dice a me, certo, di Straforo, e certo, vediamo cosa combina. Ma secondo me farà qualcosa di grosso. Sì, beh, arriverà Silvia Pirani anche. Appunto, arriverà anche qui poi Silvia. Sì, sì, sì, anche perché io sono il suo primo progetto personale. Mm-hmm. Lui tutte queste cose le edita con Casa Curci, che non c'è bisogno di spiegazioni. Mm-hmm. E io sono il suo primo progetto personale, sono molto orgogliosa di essere questo suo primato, e quindi si legherà tutto: Carlo Rizzioli, Paolo Verlanzi, Marco Berton, Silvia Pirani, per questa produzione che verrà fuori il 22 di marzo. Bene, allora un saluto dalla Sardegna, una tua collega degli Isola Song, un gruppo che ha partecipato a Sanremo. Wow, ti invidio. Si chiama Anastasia, la cantante, la fronte, ma ti saluta. Grazie mille Anastasia, respect for you. E poi andiamo a Vicenza, qui vicino. Qui vicino? C'è provincia, insomma, c'è Valerio che ti sta ascoltando. Anche grazie Valerio. Buon seguito questa sera, hai visto? Sì, tutti, sì. Ti amano, ti apprezzano. Ho pubblicato che ero qua e ho abbastanza fan, devo dire la verità. E grazie soprattutto alle serate che faccio live. Io ho visto che la gente la fidelizzi, diventa tua fan quando ti conosce sul serio. Che rapporto hai con i tuoi fans, Silvia? Splendido per lo più. Poi ho qualche diciamo, come dire, una lama a doppio taglio questo lavoro, per cui c'è qualche incidente di percorso della serie sono già il mio terzo maniaco. oppure posta intasata da messaggi assolutamente stupidi. Però i tre quarti dei miei, tra virgolette, fan, perché non mi reputo ancora così abbastanza VIP, sono assolutamente persone deliziose, squisite, che mi seguono quando possono e dove possono. Tu hai detto che suoni spesso e volentieri, che canti spesso e volentieri come vocalist, e che importanza ha cantare in tanti locali? Che esperienza ti fai? Che bagaglio prendi? È una cosa molto molto, diciamo, rilevante per quanto riguarda appunto le conoscenze, perché magari capiti nel locale dove tu stai facendo la vocalist, non c'entra niente il blues o la tua passione per la musica leggera, e magari trovi quello che ha la radio o che adesso è lì che magari suona con Tizio e Caio. Fai conto che l'altra sera ero a Venezia e non stavo nemmeno cantando, stavo facendo un DJ set e ogni tanto facevo qualche cosa al microfono. È arrivato il tastierista di Elisa e Giorgia a farmi i complimenti, quindi cioè non è rilevantissimo. E adesso sono amica su Facebook. Vabbè, sai, da una porta si apre il portone, dicono. Beh, cioè, però voglio dire, mi fa, questo mi guarda con due occhi e mi dice complimenti, e se lo dico io, e tu hai un occhio, come dire, navigato, tu chi sei? Niente, io suono le tastiere per Giorgia ed Elisa. Ah, va bene, ok. quindi grande soddisfazione. Sì, Venezia poi mi ha sempre portato molta fortuna, perché è un porto di mare, ovviamente. E ti porta a conoscere veramente un po' il mondo. Senti, Silvia, tu, torniamo indietro con certo. il discorso. Tu sei appassionata di blues, abbiamo capito. Insomma. Ah, sì, assolutamente. Però, insomma, se tu sei a casa, è una domanda velocissima che facciamo tutte le sere che facciamo in live, è una domanda, ma te ne concedo due, tre al massimo. Okay. Se tu sei da sola a casa oppure vai in un'isola deserta, cosa ti porteresti? Che canzoni, che dischi ti porteresti in mezzo? Assolutamente l'Incognito. Stanno offendo mai, no, stanno offendo mai. Li hai conosciuti? Purtroppo no. So che vanno spesso al Blue Note a Milano, prima o poi bisogna che ci scappo. E poi cos'altro mi porterei? Beh, farei tanto un misto, perché anche i Simply Red faccio fatica a stare senza. Non ci sono più musicalmente adesso, c'è solo lì. Beh, era solo lì. Il Rossino, che tra l'altro abita in Sicilia. Abita in Sicilia, è anche una tenuta agricola e ha un vigneto. Nella vecchia azienda agricola, Icola, Icola. Sì, però i Simply Red erano lui, sono sempre stati lui. Sì. E poi altri, posso portarne un altro? Sì, certo. Dopo la farei un mix tra Beyoncé, Alicia Keys, Sade. Commerciale puro. Sì, le cose alla Aguilera. Farei sì, qualcosa di più leggero, ma comunque di spessore. Beh, insomma, quindi hai un po', resti sempre comunque nel tuo settore più o meno. Eh sì, la Whitney anche quella non posso non portarmela, sì, via. Mi ha insegnato tanto. Io mi aspettavo qualcosa anche di classico, non so perché. Tipo? Non lo so. Un Bach. Sì, un qualcosa del genere, perché venendo dalla lirica magari. Ma sai che ho aperto una serata con Diego Broggio, che saluto, che è uno dei miei DJ più fedeli, stimati, con cui lavoro, e diciamo è lui che mi fa lavorare, perché Diego Broggio è un nome molto grosso. E diciamo che sono la sua vocalist preferita, posso dirlo, vero Diego? Spero di sì. Comunque quando può lui mi porta nelle sue situazioni, e mi ha fatto aprire in più di un'occasione col Carmina Burama. Ah, che bello. Sì, ho fortuna. E praticamente è stato veramente un impatto molto molto molto bello, perché comunque la gente in discoteca non si aspetta di trovare musica classica, e poi quella è tanto d'impatto, e abbiamo iniziato con la serata così, e poi in console Diego Broggio, e lì ci ha martellato come, come deve essere. Allora, invece tu, Matteo, cosa ascolti se sei a casa? Sì, che dischi ti porteresti? Ma dai, Silvia Pirani. Ah, sì, sicuramente. No, sì, beh, insomma, può essere. Ti dico la verità, io sono un po' strano, a parte che amo molto il cantautorale italiano. Nel passato lo amo alla follia, e meno lo straniero per difetto, diciamo, che dovrei ascoltarlo molto di più. Porterei come classica subito, perché io ho iniziato nella mia vita a suonare per una cosa semplice. Una volta ho visto un telefilm, La Bella e la Bestia, non so se vi ricordate, un miliardo di anni fa, o forse due, e un ragazzo cadeva nelle fogne e non sapeva chi era, suonava il pianoforte. Facci sentire cosa suonava, Matteo. No, ma non la so, perché io non ho mai fatto classica, però aspetta, questo poco. Praticamente si è messo a suonare la sonata al chiaro di luna di Beethoven. Da quel momento là ho detto, io devo assolutamente imparare a fare qualcosa. Ho imparato un quarto di quello che pensavo, speravo di imparare, però da quello ho iniziato. Porterei quello là, porterei un cantante che non conosce nessuno, però io lo amo alla follia, lo considero il cantante più bravo in assoluto. Si chiama Alessandro Enrico. So che non lo conosce nessuno, ma i testi che scrive lui non li scrive nessuno. Portati questi due qua, spererei di imbrogliare, al posto di due CD porterei la chitarra. Ah, ho capito. Non ce la farei senza, se no me la costruisco con i filamenti di cocco. torniamo in Sardegna. Bene, perché fa sempre Anastasia prima non ci ha sentito, allora la risalutiamo caramente. Ah, ok, ciao, avevo detto respect for you, perché ho saputo che sei una collega, Anastasia. Sì, è la leader di questo gruppo, che tra l'altro anche loro sono stati a Sanremo, loro invece sono arrivati un po' più su, invece sì. Ti sei fermata prima. Mi sono fermata prima, tra i primi 70 nelle preselezioni. Accidenti, mangio il microfono. Anche perché mi sentivo, non dico pesce fuor d'acqua, ma quasi, perché durante le selezioni c'era I Moderni, Antonella Lococo, Bianca Azzei, il Cile, e poi chi c'era? Il Cile c'è, adesso il Cile è, adesso il Cile è passato, poi chi c'era? Boh, insomma, tutti i nomi stragrossi. Nardicchione. Sì, quello. Gente che... Beh, ti ricordi che avevo indovinato? Sì, avevi indovinato. All'inizio, fatto una quando previsione. C'erano tantissime, avevo indovinato 3 su 6. Ah, però. Sono tanti, da 357, no, 375 iniziali, ne ho indovinati 3 su 6. Ah, tantissimi ne ho indovinati. Non era difficile, però. No, sì. Dici. No, perché il Cile era sicuro, secondo me. No, se andiamo io, la Silvia Pirani e Biagio Antonacci a fare un concorso, ho come l'impressione che Biagio abbia più possibilità. Sì, ma forse può essere che Biagio ne abbia di più, ma non lo so, magari negli altri lo batto. C'è stata non è che ci sia stata una polemica. Ilaria Porceddu, che è passato anche, bravissima. Non è che ci sia stata una polemica. Però Cile era già un nome conosciuto, sì. Non era, diciamo che la tipologia di quest'anno di selezioni scremava molto ed era un bene, perché voglio dire, l'anno scorso c'era anche gente che si tirava giù col telefonino e suonava con la chitarra e hanno creato miliardi di adesioni a questo concorso, e per cui c'era veramente tanto qualunquismo. Questo ha scremato tanto e la qualità è arrivata. Ma c'era Pagani anche in Pagani e Fazio che hanno deciso, certo, in questo senso, per cui meno confusione. Però ho gareggiato con la Sony, la Universal, il problema è quello, quindi ok scremare, però forse quei ragazzi lì che hanno magari già un singolo all'attivo, teniamoli magari per i big. Sì, esatto. Cile già era della Universal, quindi non aveva nessun problema. Siccome tu improvvisi, sì, c'è qualcuno che chiede perché non fai un accenno di Carmine Burana. Di Carloff, dai, prova, è un po' difficile. Ma allora, si può fare. Devo prendere il testo, però. Prendi il testo. Intanto io vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavarra vi sta regalando questa ora e mezza di simpatia e di grande voce con Silvia Pirani, che ci è venuta a trovare a presentare la sua musica. E abbiamo stravolto completamente la scaletta qui. Ma è bello così, il bello della diretta. Adesso sì. Perfino ci fa qualcosa di Carmine Burano, così contattiamo. A cappella, perché? A cappella. Anche prima che tu cominci, non so se lo sai, lo dico ai nostri ascoltatori, Ray Manzarek, il tastierista dei Doors, ha fatto anni fa un disco su Carmine Burana. Quindi sei in buona compagnia. Sì. Assolutamente. Allora, per voi in esclusiva Carmine Burana a cappella da Silvia Pirani. Col mal di gola. Con la voce Sandra Ciotti. Sorsa lucis et virtutis meginum contrario est effectus ec defectus semper in angorio, cum per sorte sentem vortem mongolem logite. Brava. È la prima volta in assoluto in tanti anni che tra l'altro questo è un segreto genere. La musica lirica ti consente questo, nel senso che quando tu canti di gola e hai la tracheite, certo, non riesci. La musica lirica ti fa girare il suono di testa, spingi tutto su un'altra linea e potrei farti un'opera adesso, però non riuscirei a cantarti un pezzo di Camera Consoli anche se è basso. Ah, ho capito. Ah, non lo sapevo questo. Perché è proprio, questa è pura tecnica, non c'è niente da fare. È come ballare sulle punte, devi per forza allenarti. Ma il Camera Burana è difficile per se stesso come pezzo, non è semplice, è molto difficile, molto complicato. Sì. Anche soprattutto vocalmente. Anche perché è un canto, comunque è un canto gregoriano, per cui non ha tanti riferimenti temporali, non ha un timing giusto. Insomma, ti aspettiamo qui per una serata. Potresti fare una serata di canto gregoriano. È una cosa meravigliosa, secondo me. Così sai di fare tutto. Cucino anche, ti ha detto Matteo. Dopo mi metto a posto. Non abbiamo le prove, mi dispiace. È ma vero, non ci sono le prove. È vero. Mea culpa, non ho avuto tempo oggi. Anche guidare se la cava, vero? Sì. Come si è persa. guidava il mio portaborse, però le indicazioni le davo io. Ecco. Vabbè. Senti, salutiamo il portaborse, ciao Milani DJ, che ogni tanto mi accompagna nelle serate quando sì. Ma proprio a livello anche proprio suona, facciamo DJ set insieme. Ti ringrazio anche della spiegazione tecnica, dice. Ah sì? Sì, grazie. Bellissima, veramente simpaticissima la cosa. Questo stravolgimento di scherzo. A questo punto, cosa mi fai adesso? Faccio disco. Sai cosa fai? Dimmi. Vai su il mio sito e prendi un video. E prendo un video. Un video. Un video. Si sente il sonoro anche nel video, sì. Ed è perfetto. Ed il video è nelle cover, anzi Live in Studio, una cosa del genere. Voglio che tu ascolti, se non l'hai già ascoltata, la cover che ho fatto di Sergio Camariere. Ah. Tutto quello che un uomo. E sai come te l'ho fatta? Con due contrabbassi. Sto cercando. Non la trovi? Intanto ti racconto la storia di questa canzone. Anche io, Ho voluto iniziare il progetto di fare qualche cover, ma in maniera un po' particolare. Adesso in progetto c'è un medley che, se dopo vi facciamo in tempo, perché parliamo sempre, vi farò sentire voce e chitarra, e volevo integrare un violino che sto ancora cercando. Se c'è qualche violinista all'ascolto, vorremmo integrare un violino, grazie. E questa invece è nata con l'idea di fare un pezzo italiano molto conosciuto, molto famoso, ma comunque stiloso. E prova YouTube Sergio Silvia Pirani, tutto quello che un uomo, tutto quello che un uomo, Silvia Pirani, lo trovi sicuro. E insomma, questo pezzo è nato perché volevo fare questa cosa un po' raffinata, ma comunque famosa, ma non un pezzo banale. Beh, un pezzo non è... Posso certo. Intormettermi. Non è semplice cantare un pezzo di Camariere, che lui ha un modo di fare suo particolare. Esatto. L'ho proprio completamente rivisitato. Conferma anche Matteo. Se vogliamo sottolineare di chi ha avuto l'idea di fare questa canzone. Stiamo arrivando a questo. Sei stato no, perché lui ti ha anticipato, però so che le doti sue portano a poter fare qualsiasi cosa. È difficile anche come idea. Insomma. No, perché veramente sennò potevi cadere nel banale più assoluto, e lei poteva farlo, infatti. È venuta fuori una cosa, io credo, stratosferica. Sì, insomma, devo ringraziare Matteo, che comunque in tutti questi anni, anche quando non ha scritto o comunque messo proprio le mani in opera, lui mi ha sempre fatto un po' da artistico. Ascoltiamo un pochino. Sì. Come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. E ritrovo con te l'unica verità. Il resto ve lo ascoltate, esatto, su YouTube. È interessante il discorso del contrabbasso. È un pezzo da club questo, esatto. Assolutamente da club. Allora vi dico chi sono i contrabbassisti fantastici che ho avuto: al basso pizzicato Andrea Cavallaro, che saluto, che è diventato anche lui un collaboratore. Ma lo conosco, Andrea. Lo conosci? Sì. Quando Matteo non può, è lui il supplente ufficiale, e poi comunque mi appoggio a lui per fare delle sessioni di piano, perché è un ottimo pianista e anche un ottimo bassista, contrabbassista. A meno che non sia un omonimo, ma penso che sia. No, penso sia lo stesso. E poi invece al contrabbasso arcato Mattia Corso, che lui suona con i Karma J, è molto bravo anche lui, è molto eclettico come personaggio. E CNI, ovviamente, Marco Bertone ha curato tutta la fotografia e il video, e devo dire un grazie a Matteo Tisato, perché appunto lui mi fa sempre la consulenza artistica. Ha scelto l'idea. Sì. È stato un musicista. Devo dire che ho un team adesso veramente invidiabile, sono orgogliosa di... È un motivo in più per fare proprio il disco, proprio. Esatto, insomma. Sì, no, ma mi mancano due pezzi, sono già in registrazione, settimana prossima verso il 9-10 dovrei andare a registrarli. E esce il disco quando? Il 22 marzo. Siamo lì, insomma, manca poco. Ma. Sì. Poi lo verrai a presentare anche qui. Ovvio. Facciamo una serata lunga, magari così fai un po' di blues, un po' della tua musica. Sì, certo, magari porto anche un DJ, facciamo un po' di DJ set, facciamo anche la... Tra l'altro con questo ragazzo qua, con il contrabbasso, abbiamo fatto un progetto, abbiamo girato un po' quest'estate, abbiamo fatto questa Purple Note, ci chiamavamo. Purple Note? Purple Note. Cosa c'entra? Perché comunque note viola, cioè basso, blues, così. E facevamo tutto un repertorio abbastanza rock, da Shook Me All Night Long a Ironic di Alanis Morissette, anche cose tipo Jailhouse Rock, un po' rockabilly, solo con il contrabbasso o con il basso elettrico. Eventualmente qualche base in cui io toglievo le frequenze del basso e lui suonava dal vivo il basso. Abbiamo fatto una bellissima Long Train Running solo col basso, una bambola di Patty Bravo solo col basso. Come è venuta fuori? Bellissima. Ce l'ho. Come anche che faceva? Tu mi fai girar come fossi una bambola. Ma così la fai proprio? Più o meno. No, la stilizzo molto. Certo. E dovrei averla da qualche parte, però non mi ricordo. Dove. Talmente tante cose che magari non ti ricordo. Sì. Senti, io non ci capisco più niente di questa trasmissione, ma adesso cosa ci fai? Facciamo un pezzo a voce chitarra, io e Matteo. Ok. È improvvisato. Vuoi fare col piano? Cosa facciamo col piano? Oh. Vai pure. Sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, fosse più niente più. teatisato. Grazie. Sì, Pirani. Bravissima. Io sto tornando indietro con il tempo, cioè nel senso che credo sia anche per te, Maurizio, quando gli anni 70. No, questa è un po' prima degli anni 70. Sono antica, come diceva qualcuno. E io volevo fare un altro discorso, nel senso che sto tornando indietro nel tempo quando eravamo nelle radio libere degli anni 70. Io ho cominciato nel 75-76 come Maurizio, più o meno. Sì, esattamente. E c'era questo modo, questo spirito goliardico di fare la radio, insomma, in questa maniera. Non c'era proprio tutta questa conoscenza perché non c'era internet, però la voglia di trasmettere, la gioia di cantare una canzone, l'ho ritrovata in te questa sera. Te lo devo dire con il cuore, Silvia, perché grazie. Regalando veramente una gran bella serata. Grazie mille. Crede sia un tuo amico, è un speaker tra l'altro di una radio e si chiama Sole Radio, una radio web. Mm-hmm. Si chiama Kevin Rao. Dovrebbe essere tuo amico, dice, forse ti ha conosciuto, dalla zona di Verona. Beh, sì, mi sembra di sì, mi sembra proprio. Saluta, ti sta ascoltando, sì, ti sì, fai sì, grazie mille, la saluto tantissimo. Ciao. Okay. E perché Gino Paoli? Gino Paoli piace molto sia a me che a Matteo, questa canzone. Però la versione poi Matteo ha dato una ricosa al piano. Ti dava proprio una specie di tappeto sonoro, di trampolino tappeto, esattamente. Sì. Un pezzo difficile da fare, l'hai colorato, l'hai stravolto. Non più gli anni 60 si sono persi, si sono colorati di blues anche stavolta. Esatto, assolutamente. No, sono un po' monotona. No, non è monotono, è bello così. Sì, no, diciamo che comunque è un artista che mi ha fatto conoscere mio padre. Lui è molto amante di Gino Paoli, è andato a vedersi i concerti, cose del genere. E ho scoperto poi, conoscendo Matteo 5-6 anni or sono, che era molto amante anche lui. Perché, se visto che siamo tutti amanti, non facciamo un pezzo? Ce l'ha fatta Mina tanti anni fa. Sì, beh, l'hai fatta bene. Grazie. Assolutamente. Sì, volevo quasi spegnere la luce, anche aveva creato quell'atmosfera. È un po' come dire caffè club. Bravo, vero? Bravissimo. Esattamente. Sì, bellissimo. Abbiamo ancora qualche minuto, ma insomma ci regaliamo una canzone e poi ci torniamo in studio e ci salutiamo. Ci fai subito una canzone e poi Direi che puoi prendere la chitarra, Matteo. Bravo, ecco. Lui è, siamo collaboratori da tanto tempo, perché lui ha tanta pazienza. Certo. Mi sopporta tantissimo. Cosa ci fai ascoltare? Io non ti faccio scegliere te. Facciamo la motocicletta o facciamo il medley? No, facciamo il medley, facciamo un po' di... Facciamo il medley. Il medley. Prego, vai pure. Si è messa come voce? La teniamo originale o... Sì, originale, me la sento, mi sono scaldata. È l'emozione di provare. No, è bello questo, perché l'avete forgiata e è tornata la Silvia Pirani che conosco. Adesso, tornate la parola grossa, perché... Però vabbè. Io non l'avevo mai trovata in difficoltà, però anche stasera se l'è cavata la grande, bellissimo. Direi, no? Grazie. E va sempre così, che tanto lei poi non ritorna. E va sempre così, che aspetti sole, cade pioggia. E va sempre così, che credi di aver tempo invece già. E invece primavera. Salvami, allunga le tue mani verso me. Prendimi e non lasciarmi sprofondare. Te, e ad essere migliore. Vado punto e a capo, vedrai, il che resta indietro non è tutto falso e inutile. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli, è una strada stretta fino a te. Quanta tenerezza, non fa più paura. Sei nell'anima, tra te e me. E il tempo si fermerà tra te e me. Tu dimmi che durerà tra te. Ad essere migliore. Non ci crederete, ma questa è Blu Radio Veneto con Silvia Pirani e la sua splendida voce. E Matteo Tisato. E Matteo Tisato al piano, sì, ovviamente la tastiera. E la chitarra. Arrivavo alle note, però avevo quella voce rauca classica da blues che quasi quasi mi dispiace guarire adesso. Ecco. Ci vuoi tornare a casa a piedi, senza maglietta? Sì. Ti amari, prendi la voce, un po' come la mia che ho il polipo. Silvia, la salutiamo in chiusura perché ti arrivano i saluti anche, sai, non domineresti mai, no. Dall'Australia. Australia? Ma veramente, sono veramente onorata, cioè grazie. Ha fatto un bel salto. È un bel salto, canguri. Si chiama Lori, una cantante che è stata qui, insomma ti saluto e sta ascoltando. Bene, grazie, grazie. A tanti, tanti artisti, tanti musicisti, questa sera fa piacere perché comunque hanno un orecchio sicuramente, insomma. Beh, noi lasciamo navigati. Un bel ricordo di solito, non per essere presuntuosi, insomma, però insomma restiamo anche amici loro, quindi c'è bene, questo bene. Rapporto d'affetto e poi siamo genuini, semplici, insomma, come hai potuto constatare anche tu di persona. Siamo arrivati in chiusura perché è arrivato il collega Renato Ferro che succederà a noi con la musica heavy metal la sua, quindi fini al 24. Quindi facciamo proprio uno stacco. Uno stacco completo e totale. Prima però ci sentiamo l'ultima tua canzone. Sì, io sceglierei Ed io pure di te perché è il singolo che sta andando adesso ed è il famoso singolo con cui sono arrivata tra i 70 semifinalisti di Sanremo. E quest'anno qui ci hai provato. Quest'anno ci ho provato e l'anno prossimo passerò sicuro. No, qui volevo appunto ringraziare di nuovo Carlo Rizzoli che ha curato tutto l'arrangiamento di questo pezzo, ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Se andate su YouTube a cercarlo c'è un bellissimo video sempre fatto da Marco Berton. Grazie a Paolo Verlanzi che mi cura sempre il management e buon ascolto. Ricordiamo le prossime tue date? Sì, domani sera sarò alla Scala con Eliano Veneto, sabato al Revolution a Occhiobello e domenica al Klondike vicino a Caorle. E non aspettatevi blues, ma solo pura musica disco. Ah, ecco. Va bene. Se qualcuno volesse contattarti, www.silviapirani.net e lì ci sono tutte le varie cose da sentire, da contattarmi, mail, Facebook, tutto quanto. In Facebook Silvia Pirani 2. Perché il primo l'ho riempito. Il numero di telefono me lo tengo io. Te lo tieni no? Tu? C'è anche la pagina Facebook, si iscrivete, mi piace, mi fa solo piacere. Ecco, a cena esci con me, quindi non è... Certo, non è... sì, per la gioia di tutti quanti. Va bene, noi chiudiamo qui. Maurizio, grazie anche a te di essere venuto questa sera. Grazie a Matteo Tisato. Grazie a voi. Ciao a tutti. Sì, certo, ovviamente, insomma, adesso volevo farle salutare intanto noi. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Con sì, con te giovedì prossimo. Lunedì una cosa importantissima, Caroline Mass in diretta live qui da noi, una grandissima musicista, tu la ricordi, sì, sì, Matteo, sì. Viene a suonare da noi lunedì sera alle ore 22:30 con Stefano Dainese che curerà il programma. Un appuntamento imperdibile, come tutti gli appuntamenti di Rockway o Blue Time Live. Esattamente. L'appuntamento di giovedì prossimo è con il frontman, il leader degli Innocenti Evasioni, che è la tribute band ufficiale di Lucio Battisti, però lui verrà qui come nome suo singolo, insomma le produzione solamente sua, Ligea, insomma, e ci presenterà il suo disco, però comunque l'avremo anche lui in quel famoso agosto, okay. Cui dedicheremo un po' agli special, tradizione, visto anche il periodo estivo, è giusto fare un po' di tutto. Va bene, ci guarda sto. Che ti aspettiamo, volentierissimo, non vedo l'ora. Silvia, grazie di essere venuta, ovviamente. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Blu Radio che sono stati veramente molto carini. E grazie a Matteo, ci rivediamo. Grazie presto. A voi. Ciao. Presto anche a te. Buon proseguimento all'ascolto dei programmi che continuano con Renato Ferro, però prima c'è l'ultima canzone di Silvia Pirani. Ciao Silvia. Rimpiangerai di non aver sfiorato le mie labbra e poi di aver mentito senza parlarmi mai, mentre soffiavo di te da sempre, mai mi nasconderei. Yeah.